Il beato Paolo Burali, figlio spirituale di un altro grande santo, San Gaetano da Thiene, nacque a Itri nel 1511 e al battesimo gli fu messo il nome di Scipione. Era il secondo di quattro figli. Il papà era di Arezzo, una persona influente, occupava una posizione molto importante. Infatti, prima fu gentiluomo del re di Spagna e poi diplomatico al servizio di Papa Clemente VII. La mamma invece apparteneva all'alta società di Barcellona e si chiamava Vittorio Olivares. Era senza dubbio una famiglia di grande fede perché i primi biografi, parlando del nostro futuro beato, ci dicono che crebbe intelligente, pio e incline al soccorso ai poveri. A 13 anni fu inviato intanto dai genitori a perfezionare gli studi presso la famosa Università di Salerno, da cui poi si trasferì a Bologna, chiamato allora Lucerna del Diritto. E tra i suoi maestri ci fu anche Ugo Boncompagni, che sarà poi il futuro Papa Gregorio XIII. Dopo alcuni anni, a 25 anni, ottenne la laurea in diritto civile e canonico e pensate proprio per il grande amore che già nutriva per la Madonna, in suo onore volle discutere la tesi di laurea in giorno di sabato, il giorno per eccellenza dedicato a Maria. E proprio questa devozione profonda verso la Madre di Dio sarà presente in tutta la vita. Nel frattempo però, pur essendo di famiglia benestante, per rendersi indipendente dalla famiglia, guadagnandosi così il pane quotidiano, dal 1536 al 48 esercitò come avvocato nel Foro di Napoli. Sia pure, ci dicono i biografi, attraverso crisi di spirito dettate da una coscienza che non accettava compromessi e sotterfugi, come era allora costume corrente. Ebbene, proprio per questa sua lealtà, questa sua correttezza, il nostro beato Paolo Burali dai napoletani si era meritato il soprannome di dottore della verità. Ma questo anche perché, cari amici, dai poveri, che molte volte proteggeva contro le angherie dei prepotenti e dei forti, non voleva assolutamente onorari, anzi più volte lui stesso donò somme importanti a chi non disponeva delle risorse necessarie per portare avanti il processo. C'era per esempio chi chiamava in giudizio dei poveri, sapendo bene che non potevano difendersi per dilapidare, per rubare, possiamo dire così, i pochi beni che avevano. Ebbene, dovevano comunque rispondere, non avendo possibilità, lui stesso dava la disponibilità economica a queste persone. Un fatto che toccò il cuore di tantissimi napoletani. Alcuni anni dopo, però, nel 1550, accadde un fatto del tutto inaspettato. Aveva 39 anni. E decise di ritirarsi perché sentiva nel cuore che il Signore lo chiamava ad un'altra missione. Non capiva esattamente quale, anche se stava facendo un ottimo lavoro spirituale. In ogni caso, ebbe una crisi di coscienza, lasciò il suo lavoro e si rinchiuse nella casa paterna Itri. A sottrarlo da questa situazione fu proprio il viceré di Napoli, che per la stima grande che aveva di lui, lo nominò, lo pregò di accettare la nomina di consigliere regio e giudice nei processi con reati penali. Il nostro beato accettò, ma invece di gravitare, come facevano tanti altri, attorno alla corte per ottenere, diciamo, favori e vantaggi, frequentava soprattutto la chiesa di San Paolo Maggiore, che era tenuta a Napoli dai padri teatini, così come lo è anche oggi. Ebbene, qui il Signore lo attendeva. Ebbe infatti la grazia di conoscere un altro beato, padre Giovanni Marinoni, al quale affidò la direzione della sua anima. E proprio in questa città meravigliosa, Napoli, il beato Marinoni con San Gaetano da Thiene fece un fecondissimo apostolato tra i poveri e i malati in modo particolare. E sotto la sua guida il nostro beato imparò anche a staccarsi da quelle attrattive terrene che umanamente erano, diciamo, comprensibili, a nutrire soprattutto una serena fiducia nella divina provvidenza, a fortificarsi con la comunione frequente, e lui amerà tantissimo, come vedremo, la Santa Eucaristia, conducendo un'intensa vita mariana. proprio per questo, questa sua rettitudine di vita, per questa luce che comunque emanava anche grazie alla tanta preghiera che era presente nella sua giornata, anche la sua reputazione nel foro napoletano crebbe a tal punto che sempre il viceré ritenne opportuno affidare lui un delicatissimo incarico, cioè quello di recarsi presso lo scontroso Papa Paolo IV per appianare delle divergenze sorte tra il Regno di Napoli e la Santa Sede. Il nostro Beato sapeva bene essere una missione difficile. Cosa fece? Iniziò una preghiera ininterrotta chiedendo l'intercessione della Madonna e mettendo sotto la sua materna protezione l'esito dell'incontro. Ebbene, la sua missione non solo ebbe pieno successo, ma gli offrì la possibilità di essere stimato dal Papa, compresi che aveva di fronte Papa Paolo IV, e gli diede la possibilità di diventare addirittura uditore del Tribunale della Sacra Romana Rota. E qui diciamo che rinfocolò ancor più questo suo cammino spirituale, il nostro beato Paolo Burali, mantenendo, ecco, soprattutto continui contatti, sempre con i padri teatini a cui era molto legato, che officiavano a Roma nella chiesa di San Silvestro. Allo stesso tempo però sentiva, ed era ormai chiara una chiamata, che avvertiva fortemente nel cuore, di essere tutto del Signore, consacrando a Lui tutta la sua vita. E allora cosa fece? Tornato a Napoli, dopo questa breve parentesi romana, cominciò a far parte dei chierici regolari teatini. Era il 25 gennaio 1557, aveva 46 anni. Alcuni giorni dopo, il 2 febbraio esattamente, vestì l'abito religioso e l'anno successivo, sempre il 2 febbraio del 58, emise la professione religiosa con il nome di Paolo. Il nome di Paolo lo scelse per amore del papà, infatti il papà, abbiamo visto, si chiamava Paolo Burali, quindi scelse questo nome come religioso. Questo lo scelse dopo anche un noviziato particolarissimo e pieno anche di santità, trascorso con un altro santo, Sant'Andrea d'Avellino, un sacerdote meraviglioso, modello ed esempio veramente di santità. Fece il noviziato con lui. E lui, il nostro Paolo Burali, era una persona, dicevamo prima, riservata, amava il nascondimento, sarebbe rimasto sempre comunque volentieri un semplice fratello laico. Ma conoscendo la stoffa che aveva, sia il direttore spirituale sia i superiori non furono dello stesso parere. Anzi, pensate, perché diventasse al più presto sacerdote, gli accorciarono persino il periodo di prova richiesto. Questo ci fa capire la grandezza di quest'uomo e lo spessore anche spirituale di questa persona. E facendosi teatino, padre Paolo Burali pensava comunque di vivere in uno stile di serena normalità quotidiana, quindi senza nessun tipo di incarico particolare, non se ne sentiva veramente neanche all'altezza. Invece nel capitolo generale di Venezia nel 1560 fu nominato superiore del monastero napoletano di San Paolo Maggiore, che lui frequentò agli inizi, quando era a Napoli a fare l'avvocato. Non solo, a breve distanza Papa Pio IV, zio di San Carlo Borromeo, gli propose di guidare i vescovadi di Crotone e di Brindisi. Egli pregò molto per questa cosa e, prendendo il coraggio a due mani, ringraziando il Papa per la stima, per la grande fiducia di cui era oggetto, chiese di rinunciare perché diceva: io sono assolutamente incapace di gestire questi due vescovati. Il Papa, diciamo, paternamente lo ascoltò e lo liberò da questo incarico. I suoi confratelli, però, per quanto riguardava, diciamo, le varie sedi teatine, non erano dello stesso avviso. Infatti nel capitolo generale del 1563 lo rielessero per la seconda volta superiore di San Paolo Maggiore a Napoli e poi al termine della carica lo fecero superiore di San Silvestro, addirittura nella sede centrale romana dell'ordine teatino che San Gaetano da Thiene aveva fondato nel 1524-25. Anche qui il nostro beato avrebbe trascorso volentieri la sua vita nella sua celletta, dedito alla preghiera che amava moltissimo, allo studio, ma capiva che questa era la volontà di Dio e che per il bene del prossimo doveva spendere tutto se stesso in questa missione. Ma le tribolazioni, cioè le cariche onorifiche, come le chiamava lui, non erano ancora terminate. Nel 1565 i napoletani, con il sostegno di San Carlo Borromeo, nipote segretario di Stato di Pio IV, di Papa Pio IV, lo incaricarono di una complessa missione diplomatica presso la corte di Madrid. Qual era questa missione? Ottenere che a Napoli fosse soppressa oppure almeno mitigata l'Inquisizione, che era odiosa, e che non fossero confiscati i beni di chi era ritenuto eretico. Il nostro beato fu costretto, andò naturalmente a Madrid, e fu costretto a un'estenuante attesa. Pensate, ci vollero 6 mesi prima di essere ricevuto in udienza da Filippo II. Non era dispiaciuto dell'attesa, attendeva volentieri perché sapeva che era per il bene dei napoletani, ma era dispiaciuto delle grandi spese che, per mesi suo malgrado, doveva sostenere e di dovere, diceva lui, mangiare il sangue dei poveri. Questo perché? Perché tutti i napoletani, anche quelli più poveri, perché lui andasse a Madrid per cercare di ottenere questa cosa, avevano messo quel poco che avevano e c'era gente che faceva fatica a mangiare, pure quel soldo che poteva mettere lo metteva ed era questa la cosa che a lui dispiaceva di più. Il re comunque, dopo averlo ricevuto, fece promessa ai napoletani di liberarli per sempre dall'Inquisizione, ma riguardo all'altra richiesta, cioè di non confiscare i beni degli eretici, almeno quelli detenuti tali, si riservava di pensarci. Dopo aver ottenuto dal re Filippo II di aver esaudito il desiderio di essere riuscito ad ottenere dal re almeno la fine dell'Inquisizione, tornò a Napoli, accolto con grande gratitudine da tutti. Era stimato, ben voluto, anche se purtroppo non mancavano gelosie e invidie che gli facevano davvero molto male, ma sappiamo che le strade dei santi sono lastricate anche da prove. Ma lui soprattutto, ormai con la grande esperienza acquisita nel foro, faceva l'avvocato e il giudice, ma adesso soprattutto nel confessionale, al capezzale dei malati e nella diplomazia, tutta questa grande esperienza, questa grande spiritualità anche, lo rendeva maturo per compiti ancora più grandi. Infatti San Pio V, nell'aprile del 67, lo incaricò di compilare un trattato titolato De Gensibus, in preparazione di una bolla papale, e di esaminare anche uno dei casi più clamorosi e discussi dell'Inquisizione concernente l'arcivescovo di Toledo. Non era un lavoro facile, ma del lavoro svolto il Papa fu molto soddisfatto, tanto che nel maggio dell'anno successivo lo nominò vescovo di Piacenza. Monsignor Burali, che aveva 57 anni, ne prese possesso il 29 settembre dello stesso anno, ma lo fece cari amici solo perché costretto dall'obbedienza, quindi il Papa non voleva sentire ragioni. Contento della sua scelta fu invece tutta la comunità di Piacenza e soddisfatto ne fu anche San Carlo Borromeo, suo confinante nella diocesi di Milano, alfiere della Riforma Cattolica, perché San Carlo conosceva bene Monsignor Burali e ne apprezzava la bontà di vita, la scienza, la santità e anche l'esperienza. A Piacenza il nostro beato rimase alcuni anni, non molti anni, ma svolse un'intensa attività pastorale, possiamo dire, cari amici, vasta e incisiva ad ogni livello. E lo straordinario zelo, l'amore che dispiegò per attuare, come vedremo, le prescrizioni del Concilio di Trento, concluso da qualche anno, nonostante qui le resistenze del clero di allora, sempre in buona parte freddo, distante, raramente zelante, gli meritarono da San Pio V la nomina cardinale, che fu costretto anche questa ad accettare. E qui proprio questi suoi sacerdoti, parte della diocesi di Piacenza, furono per lui un grande dolore e versò vere lacrime, lacrime amare anche di dispiacere, di profondo dispiacere, perché vedeva molti di loro deviare, distanti, con poca cultura. Quindi lui cosa fece? Un lavoro incredibile proprio in questa diocesi e poi andò a Napoli. Ma andiamo sempre per ordine. Dopo la morte di San Pio V nel conclave del 1572 fu eletto Gregorio XIII. Lui intanto, il nostro beato, nonostante le alte cariche che ricopriva, costretto, dicevamo, ad accettare per obbedienza, viveva una vita nella più grande sobrietà, ma soprattutto santità. La sua giornata aveva inizio prestissimo con la celebrazione quotidiana della Santa Messa, alla quale faceva precedere una lunga preparazione con la recita del mattutino e delle lodi. Era, cari amici, una preghiera infuocata di amore sincero e di devozione verso Gesù e per la Vergine Maria. Era da sempre devoto fino in fondo, fino al midollo della Madonna. Ogni settimana si confessava, ogni domenica prendeva parte in Duomo alla messa cantata ai Vespri, e la sua giornata era sempre divisa tra la preghiera, che amava profondamente, lo studio e poi l'assistenza ai poveri, in particolare ai più abbandonati, quelli a cui nessuno più pensava, a quelli diceva che la loro morte sarebbe passata inosservata, non sarebbe interessata a nessuno. E una carità anche particolare la usava con i tanti ammalati, che aiutava anche materialmente quando era possibile, e poi non mancava mai la visita alle parrocchie della sua diocesi, i pellegrinaggi tanti, fatti a piedi, ai più famosi santuari del territorio, e poi tutto, sempre tutto, si concludeva con la recita delle litanie davanti all'Eucaristia, davanti al Santissimo Sacramento che lui amava più di ogni cosa. Pensate, era così grande l'amore per l'Eucaristia che da portarlo a vigilare sempre, allora c'era bisogno, perché fosse decorosamente conservata e portata sempre solennemente in processione nella festa del Corpus Domini. La sua vita vissuta nella carità vera verso i fratelli e il suo donarsi senza riserve portava ora la gente a chiamarlo il Vescovo Santo. Quando passava per le strade le donne correvano a baciargli la veste e lui si scherniva, non voleva. Quando tornava in sede dopo alcune magari assenze dovute anche a riunioni, la gente allestiva in suo onore grandiose coreografie. Insomma, i piacentini da quasi 70 anni non avevano visto un pastore risiedere stabilmente in mezzo a loro come stava facendo lui. E quando lo avvicinavano e vedevano quel volto scavato per le malattie, per le penitenze, le lunghe preghiere, dalla parola che toccava davvero il cuore, dall'attività senza sosta, era naturale che sentissero il bisogno di volergli bene e di stargli vicino. È importante ricordare a questo proposito alcuni tra i pilastri che erano stati stabiliti dal Concilio di Trento per la rinascita cattolica, ed erano fra gli altri l'istituzione dei seminari fondamentali, la residenza dei vescovi che doveva essere in loco e la celebrazione dei sinodi. Ebbene, lui ne fece subito programma del suo episcopato fino all'ultima virgola. Pensate, nel 1568, in un grandissimo camerone dell'episcopio, lì diede inizio al primo seminario. Il primo rettore fu un padre teatino, a cui seguì un altro grande sacerdote pieno di sapienza, che era aiutante di San Carlo Borromeo. Si chiamava Don Andrea Gigio, e il nostro beato lo aveva chiesto a San Carlo, che erano amici, e San Carlo volentieri lo inviò. Fece tantissimo questo Don Andrea Gigio nel primo seminario teatino a Piacenza. E qui l'eccellenza fu anche che il primo direttore spirituale fu addirittura Sant'Andrea di Avellino, venuto a Piacenza come superiore della chiesa di San Vincenzo con alcuni confratelli, proprio in seguito alla richiesta che sempre il nostro beato Paolo Burari ne aveva fatto al capitolo generale dell'ordine. E in questa chiesa, ogni mattina per prima cosa, i seminaristi prendevano parte alla Santa Messa, si confessavano da Sant'Andrea che seguiva il loro percorso spirituale. E proprio in quel momento, per la necessità impellente, grande, di avere tanti pastori e pastori santi, gli aspiranti al sacerdozio costituirono un punto fermo del nostro beato. Più ancora che con le regole, egli possiamo dire che instillò nel loro cuore l'amore per un cammino di santità. E lo faceva questo con la forza trascinatrice dell'esempio. Li visitava se erano malati, li soccorreva nelle loro necessità, li invitava a mensa con sé per la lettura spirituale, li istruiva nelle cerimonie, nel canto sacro, insomma, li amava veramente come la pupilla dei suoi occhi, sapeva la grandezza di essere sacerdote, sapeva anche quante anime potevano essere salvate con un sacerdote santo, con un sacerdote che conosceva il catechismo, e allora purtroppo non era così. Infatti, un altro punto fermo, subito dopo l'istituzione del seminario, fu la visita pastorale alle chiese della diocesi di Piacenza, uno dei cardini fondamentali della riforma tridentina. Nessun vescovo prima di lui, pensate, aveva visitato personalmente tutte le 400 parrocchie che facevano parte di quella diocesi. Ebbene, egli le visitò per ben due volte tutte e in molte occasioni a dorso di mulo, portando, ci viene detto, la mansuetudine del padre e l'affettuosità del pastore. E dei suoi parroci, che il vescovo amava moltissimo, voleva conoscere la moralità, soprattutto, dicevamo, la loro preparazione religiosa, la carità nell'amministrazione dei sacramenti, l'adempimento della residenza che doveva essere lì, in quel luogo e non altrove. Allora era, cosa si faceva? Avevano delle nomine in un paese, in una città, e poi andavano in un'altra città, in un altro paese, dove pareva, diciamo a loro, dove potevano avere anche altri benefici. E poi un'altra cosa molto importante, la fedeltà al dovere pastorale. E i punti sui quali insisteva di più con i suoi preti erano in particolare l'adorazione all'Eucaristia, da cui sgorgavano le grazie più grandi e meravigliose, l'amore alla Madonna, da amare sinceramente e teneramente come madre, e poi l'istruzione religiosa. Visto che i tempi erano di grande povertà, pensate, per non essere di peso a nessuno, molto spesso nelle visite portava con sé quel poco cibo necessario, creando grande stupore nei sacerdoti, perché di solito il vescovo quando andava, cioè quel poco che avevano i sacerdoti dovevano metterlo a disposizione del vescovo, era esattamente il contrario, quindi si stupivano. Quando poi durante le visite vedeva addirittura sacerdoti bisognosi, era lui ad aiutarli, così come quando vedeva chiese fatiscenti, oppure da mettere a posto, dava lui i soldi per poterle restaurare. Proprio buona parte dei suoi sacerdoti erano conquistati da questa sua austera bontà. Sapevano bene tutti che il loro vescovo viveva in episcopio come in un convento però, osservando con profonda obbedienza le prescrizioni del Concilio di Trento, conducendo una vita di profonda preghiera, di penitenza, e guardavano a lui con gioioso sbalordimento. Dicevamo che il Concilio di Trento aveva imposto ai vescovi la celebrazione dei sinodi diocesani. Ebbene, lui in questo compito fu assiduo e tenace. Ne tenne due, uno nel 1570, l'altro nel 74, anche per indicare le linee pastorali, di cui possediamo gli atti di questi due sinodi. Ed essi, questi sinodi, costituiscono proprio le pietre miliari nella storia ecclesiastica di Piacenza, proprio per la loro risposta alle esigenze vere e profonde di quel momento, dei sacerdoti, della Chiesa e del popolo. Il segretario di questi due sinodi fu Pietro Galesinio, era un altro grande sacerdote, braccio destro di San Carlo. Pietro Galesinio fu inviato, lo aveva richiesto sempre come gentilezza a San Carlo, il nostro beato, e glielo inviò, era il pronotario apostolico Pietro Galesinio. Qui ci dice anche quella che era la grande amicizia, dicevamo, tra San Carlo e il beato Paolo Burali. E sappiamo addirittura che il nostro beato intervenne su invito di San Carlo ai sinodi milanesi come suo amico e come consulente prezioso. Sapeva bene, appunto, dicevamo, dell'esperienza della santità, e San Carlo stimava molto Paolo Burali. Intanto però, nell'attesa che il seminario desse i suoi meravigliosi frutti, cioè i sacerdoti, il nostro vescovo cercò di elevare, come dicevamo prima, la poca, purtroppo, poca cultura religiosa del clero. Nel primo sinodo aveva fatto questa raccomandazione ai sacerdoti. Quando avanza un briciolo di tempo, dice, dopo gli impegni del ministero, i sacerdoti non lo dedichino alla caccia, alle osterie, ma lo investano nella proficua lettura dei santi padri o di libri istruttivi. Meditino giorno e notte la dottrina della Scrittura e il contenuto della legge di Dio. Ma lui andava anche oltre. Precisava il minimo indispensabile di libri che dovevano arricchire ed essere presenti negli scaffali della canonica. Insomma, voleva che i suoi preti comprendessero l'importanza fondamentale nell'insegnare ai fedeli, che essi stessi fossero preparati e poi facessero catechismo a tutti i fedeli, a tutto il gregge a loro affidato. Così, proprio elevando la cultura religiosa del suo clero, sperava di migliorarne anche la moralità. A volte, dicevamo, diversi deviavano dalla buona strada. E proprio per tenere, diciamo, le briglie a questa situazione, per la buona reputazione dei suoi sacerdoti, che amava moltissimo, prescrisse anche che tutti portassero la talare, che di notte non si facessero vedere bighellonare per le strade, e se costretti a scendere in città, quindi a Piacenza per affari, andassero ad alloggiare in episcopio, cioè da lui, anziché nelle trattorie, luoghi sempre equivoci. Quanto poi all'obbligo della residenza, che era fondamentale, perché bisognava fare catechismo, bisognava amministrare i sacramenti dove si erano nominati, riguardo all'obbligo della residenza fu intransigente con tutto il suo clero. Quelli anzi che avevano accumulato diversi richiami dovevano rinunciare a quasi tutti i benefici pena la destituzione. E proprio, possiamo dire, il cuore pulsante, la mente di ogni suo sacerdote doveva essere per l'attività pastorale, per la presenza, l'assiduità al confessionale, all'altare, soprattutto all'insegnamento del suo gregge affidato a queste sue cure. E per una più intelligenza e proficua pastorale era anche indispensabile, lui pensò, una buona anagrafe della parrocchia. Ebbene, con i decreti relativi ai registri dei battesimi e dei matrimoni, si può dire, cari amici, che il nostro beato gettò la prima pietra dei moderni archivi parrocchiali. Non si fermò qui, cari amici. Come un vero padre, un vero papà, lui si interessava anche di come vivevano, cioè della situazione quotidiana che viveva ogni suo sacerdote, e lo fece con lo stesso spirito di carità con cui si adoperò per risanare le piaghe dolorose del popolo piacentino. Aggirandosi e visitando le parrocchie della diocesi e comprendendo la povertà di tanti preti, dimezzò tutte le tasse di curia, agendo con estrema decisione contro chi voleva usurpare i benefici ecclesiastici, e di lupi ce n'erano parecchi. Il nostro santo vescovo ebbe mano di ferro anche quando si trattò di salvaguardare dalle angherie dei disonesti il patrimonio di tanti poveri, rappresentato o dai legati pii oppure dai monti di pietà. Monti, infatti, portavano dai monti di pietà quel poco che avevano, cercando poi di riscattarlo. Ma altri approfittavano di questa situazione indegnamente, cercavano di speculare, di danneggiare queste persone povere, soprattutto andando e danneggiando chi sapeva che non aveva la possibilità di difendersi. In questo caso lui, il Monsignore, e questo vescovo meraviglioso, interveniva in prima persona, sistemando immediatamente le cose. Quindi gli stava a cuore tutto, erano figli, ognuno era figlio per lui o figlia. Ma oltre che all'elevazione culturale e anche morale del clero, si adoperò anche per risollevare le famiglie religiose, quindi le congregazioni che erano, diciamo, a Piacenza e nel suo territorio, nella sua diocesi, dalla crisi morale e anche disciplinare in cui versavano. Nei monasteri femminili, a causa della scarsa assistenza spirituale di cui soffrivano, della mancanza di preghiera purtroppo e della quasi inosservanza della clausura, regnava sovrano, possiamo dire, tristemente, il pettegolezzo e il litigio. Il nostro pastore non si fermò a guardare. Li tenne anche sotto il suo controllo nella loro vita quotidiana e nei loro avvenimenti più importanti. Ripristinò in questi conventi senza nessuna eccezione la clausura più stretta, anzi soppresse d'autorità quelle ribelli e disobbedienti che facevano tantissimo male. E proprio il secolo XVI sappiamo che era un secolo dove buona parte della corruzione regnava sovrana nella società, l'immoralità dilagante e anche la prostituzione. Ebbene, il nostro Santo Vescovo, nell'intento di contrastare quest'ultimo male, cioè la prostituzione, aiutare tante ragazze avviate sulla strada, qui è triste dire che erano avviate sulla strada da persone senza scrupoli, ma a volte anche dai familiari, oppure quando vedeva che alcune di esse per disperazione si prostituivano, dopo tanto pregare con l'aiuto del principe Ottavio Farnese, signore della città, sentiva in cuor suo, signore gli faceva capire che era arrivata l'ora di costruire qualcosa. Allora cosa fece? Nell'aprile del 1573 fondò il monastero delle Convertite. Questo convento, a cui fu dato il nome di Santa Maria Maddalena, prosperò moltissimo, sia perché saggiamente diretto dallo spirito di Sant'Andrea di Avellino, sia per quei piacentini che ne avevano capito l'importanza proprio per risanare la società, mise tutto quello che poteva, quindi aiutò in tutti i modi. E le donne che purtroppo erano sulla strada, ma esprimevano la volontà di tornare a Dio, prima di essere introdotte in monastero, erano affidate a un'esperta gentildonna per un periodo di prova, no? Anche per capire se era un desiderio sincero quello di cambiare vita. Se si chiudeva positivamente la prova, il beato stesso le accompagnava dal luogo fino alla sede del convento. E qui di grande aiuto proprio nell'organizzazione dell'opera furono Don Alessandro Boria, un sacerdote carissimo a San Filippo Neri, era un suo aiutante, e San Filippo gli inviò, era amico di Monsignor Burali, e quindi gli inviò questo grandissimo sacerdote, davvero sapiente, come aiuto prezioso, e San Carlo gli inviò per quest'opera anche due altre signore milanesi come maestra delle novizie, non dimenticando l'aiuto grande del suo vicario generale, Monsignor Gaspare Celingardo. Dobbiamo anche dire che già due anni prima, quindi siamo nel 1571, allora c'erano anche diverse ragazze orfane che purtroppo finivano male. Il nostro vescovo Monsignor Burali aveva fondato già un istituto più piccolo con l'aiuto di alcune nobili gentildonne che proprio per amore di queste ragazze si trasformarono in questuanti addirittura, dandogli una mano e cercando di aiutarle. Ma parlavamo prima degli ordini religiosi, ci stupisce un po' questa cosa, ma allora purtroppo la situazione non era delle migliori, c'era davvero molto, come si potrebbe dire, ognuno faceva un po' quello che gli pareva, all'interno dei monasteri, all'interno anche degli ordini religiosi maschili, e dicevamo che il nostro vescovo intervenne cercando di migliorarli, richiamandoli proprio all'osservanza delle prescrizioni del Concilio di Trento, ma anche immettendo nella diocesi di Piacenza famiglie religiose più inclini alle sue direttive, più obbedienti. Affidò infatti nel 1570 ai padri Cappuccini il convento di San Bernardino e si fece aiutare da loro anche per le missioni al popolo, per fare catechismo, per insegnare al popolo. Voi sapete meglio di me qual è l'importanza fondamentale di conoscere la dottrina cristiana, no? E di un'importanza enorme. E ringraziamo la Madonna che ci ha donato Radio Maria che fa questo. E poi, proprio grazie ai padri Cappuccini, esprimeva nella diocesi di Piacenza anche tante opere di carità. L'anno dopo, nel 71, fu la volta dei teatini, a cui affidò la chiesa di San Vincenzo e fece di loro anche i direttori spirituali non solo del seminario, ma anche i confessori delle monache, quante sono poi hanno cambiato, diciamo, addirittura arrivando addirittura a un percorso di santità, diventando predicatori, catechisti, penitenzieri. Insomma, i cappuccini e i teatini suscitarono nella diocesi di Piacenza, possiamo dire che erano amici, una primavera di vita religiosa con grande gioia dei fedeli. Dicevamo prima, ne abbiamo parlato, che il Concilio di Trento aveva indicato tra i cardini essenziali proprio della rinascita cattolica la catechesi, una perla preziosa. E lui, dopo 4 mesi proprio della sua entrata a Piacenza, aveva capito, proprio a causa del diffuso analfabetismo religioso, l'improrogabile nascita della confraternita, la chiamava lui, la confraternita della dottrina cristiana, in tutte le parrocchie, proprio in tutte le 400 parrocchie. Non disponendo però di personale capace, perché anche quel personale doveva essere istruito, lo fece allora arrivare da altri luoghi e ne stabilì la sede nei chiostri della chiesa di Sant'Alessandro. Per superare poi le resistenze, le pigrizie da parte del clero, quanto ha pregato questo santo per i suoi sacerdoti, noi non abbiamo idea quante penitenze ha fatto e quante lacrime, dicevamo, avversato per loro. Per superare, dicevamo, resistenze e pigrizie da parte del suo clero, nei sinodi precisò i doveri dei sacerdoti e ribadì l'obbligo per tutti quelli che avevano cura di anime di evangelizzare gli adulti, quindi di fare catechesi, quando? Per mezzo dell'omelia della domenica, e di catechizzare anche i fanciulli durante le feste. E come le altre opere del Beato, anche questa prosperò, fu benedetta da Dio in tutta la diocesi, con un beneficio immenso, possiamo immaginarlo, per tutti i fedeli. Ma egli stesso per primo faceva il catechismo in cattedrale, il vescovo andava a fare catechismo, predicava lui nelle parrocchie che visitava, vigilava perché nessun pastore venisse meno. E anche i mendicanti e i girovaghi furono oggetti delle sue premure di padre e di pastore. Infatti, sotto il porticato dell'episcopio voleva che con il cibo per il corpo, quindi naturalmente veniva donata la minestra, un suo segretario che chiamava lo spenditore distribuisse anche il cibo per l'anima, cioè il catechismo per lo spirito. E proprio con il miglioramento, possiamo dire, culturale e spirituale del clero, il nostro vescovo giunse anche alla riforma, possiamo dirlo, morale del popolo di Piacenza, in parte a suo fatto alla bestemmia, al concubinato, alla vendetta, addirittura all'usura. E perché potessero aiutare chi era indigente, per le famiglie più distinte, cioè più ricche, nel 1576 fondò per loro la confraternita dei cappuccini laici conversi di Santa Maria delle Torricelle. Perché la fondò? Adesso vi spiego. Nelle feste gli iscritti si radunavano nella loro chiesetta per cantare l'ufficio della Madonna e prendere parte alle processioni vestite di sacco, ma soprattutto, ecco qua, 4 volte all'anno si accostavano ai sacramenti, assistevano i malati, queste persone nobili, ricche, assistevano i malati con la questua, i poveri erano assistiti da loro con il patrocinio gratuito, anche sotto l'aspetto forense, e poi venivano erogate a vantaggio dei poveri e dei malati notevole somme di denaro da parte loro. Non solo, ogni venerdì digiunavano a pane e acqua, ma possiamo dire che tutto l'episcopato era ormai una donazione continua, piena di carità, di amore verso i bisognosi. Per questo motivo lui fu salutato dai piacentini, padre dei poveri. Arriviamo così al 1575, era andato a Roma per acquistare le indulgenze del Giubileo. L'anno successivo però, sapendo la grandezza, l'importanza preziosa delle indulgenze, ne volle organizzare uno a Piacenza, un anno che riuscì splendido, ricco di frutti spirituali meravigliosi. Cosa fece però? Per l'accoglienza, perché la povertà era tanta, per l'accoglienza gratuita degli uomini trasformò in albergo proprio l'episcopio e per l'accoglienza gratuita delle donne trasformò in albergo le adiacenze di Sant'Antonino. E pietà e spirito di penitenza distinguevano le processioni collettive per la visita alle quattro chiese stabilite per ottenere appunto l'indulgenza. Ma alla loro testa, alla testa di queste processioni, si metteva il nostro cardinale che procedeva sempre a piedi scalzi, a mani giunte, trasfigurato in volto. Spesso fu visto servire lui stesso ai pellegrini il vitto che i più facoltosi cittadini mettevano a disposizione di tutti. Vedete, quando l'amore di una persona, di un santo, coinvolge tutta una comunità, tutta quella comunità fiorisce anche nella generosità. E frutto proprio di quel vigoroso amore del prossimo, suscitato dal Giubileo di quell'anno, fu la confraternita della Santissima Trinità, eretta dal vicario dei Teatini, Monsignor Siringardo, a nome di questo santo vescovo, e che fu aggregata a quella di Roma, fondata molti anni prima proprio da San Filippo Neri con gli stessi intenti, cioè provvedere all'alloggio dei pellegrini durante gli anni santi e assistere poi gli ammalati durante gli altri. E qui per volontà di Papa Gregorio XIII, il 29 ottobre 1576, il nostro Cardinal Burali ebbe una grandissima prova. Infatti il Papa, vedendo la preparazione, vedendo la santità di quest'uomo, cosa fece? Gli chiese di lasciare Piacenza e di andare a Napoli. Voleva riformare Napoli. Fu una separazione dopo 8-10 anni dolorosissima, perché era profondamente legato, ma sapeva e doveva obbedire, il Signore lo chiamava lì. A causa però delle critiche condizioni di salute, non ebbe modo a Napoli di donare tutto se stesso come avrebbe poi voluto e desiderato. Pubblicò però un volume molto importante, si chiamava Il Catechismo per i Sacerdoti, e quanti frutti ottenne la lettura di questo libro da parte di tanti consacrati. Si distinse ugualmente però nella visita, lui ci teneva moltissimo alle parrocchie della città, nella riforma, come aveva fatto a Piacenza, dei monasteri, di monache disobbedienti a volte. Voi pensate che qualche monastero allora era diventato quasi un hotel a 5 stelle, dove erano all'interno, diciamo, ragazze di famiglie ricche diventate monache, ma vivevano tutt'altro che da monache, insomma. Quindi lui sovvertì quest'ordine cercando e riuscendo a stabilire dei canoni precisi di obbedienza alla regola della congregazione, no? E poi soprattutto, cosa che lui stava profondamente a cuore, alla cura del seminario di Napoli. Ma ci fu un problema, perché si fratturò una gamba che accentuò l'aggravarsi della situazione in un corpo già possiamo dire esile e macerato dalle penitenze. Tutto questo lo portò in fin di vita. Morì infatti a Torre del Greco, vicino Napoli, dove si era ritirato per un brevissimo periodo di riposo. Era il 17 giugno 1578, aveva 67 anni, e le sue reliquie riposano insieme a quelle di San Gaetano da Tiene, del Beato Marinoni, che abbiamo visto era suo direttore spirituale, e altri beati teatini, riposano nella Basilica di San Paolo Maggiore a Napoli. E pensate, in quel giorno San Filippo Neri, in quei giorni, quando seppe della sua morte, disse che questa scomparsa, disse San Filippo Neri di lui, era una grandissima perdita per tutto il mondo cristiano, sapendo la grandezza di questo apostolo della carità. Ma la sua opera, cari amici, di carità e di donazione verso tanti fratelli, non è stata però dimenticata, e possiamo anche pensare che il suo amore alla Madonna sia stato ricambiato dalla Madre di Dio in modo singolare. Allora infatti neanche si immaginava l'importanza di quella data benedetta, legata qualche secolo dopo, sarà legata qualche secolo dopo, alla presenza della Madonna a Fatima. Infatti pensate, Papa Clemente XIV lo beatificò proprio lì, il 13 maggio del 1772.